Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lo sceriffo strabuzza gli occhi, quasi incredulo. Mi scusi, lei ha visto il cartello e andava comunque a 70 all'ora invece che a 50? Scenda dall'auto, mi segua. Ciao, sono Antonio, ho 44 anni, vivo a Pistoia con mia moglie e i miei due figli e faccio il venditore di birra artigianale. Intersezione con obbligo di fermata. Noi in quattro in macchina, io alla guida. Rallento, guardo, non c'è nessuno, passo. Sirene, due motorini al nostro inseguimento. Mi fermo, scendiamo, ci chiariamo, ci fanno una multa per mancato stop. Paghiamo, salutiamo e ce ne andiamo. Ce l'eravamo meritata, è vero, quella multa. Peccato che fossimo nella periferia semideserta di una strada di collegamento tra Marrakech e Agadir, dove forse passavano 5 auto al giorno. Emanuele. Faccio il fattorino da 4 anni, metto sempre la cintura. Un giorno, affacciandomi da un incrocio con scarsa visuale, per sporgermi e vedere meglio, mi levo la cintura. Mi dimentico di riagganciarla e dopo pochi metri vengo fermato da una pattuglia. Quei 5 punti bruciano ancora. Andrea. Le 16:09 minuti in punto, buongiorno a tutti, questo è uno splendido venerdì del 7 marzo del 2014 e oggi, se siete in macchina, come forse è probabile a quest'ora del venerdì, oggi potete ammetterlo. Ok, ho preso quella multa, ho fatto quella porcheria ed effettivamente me lo meritavo. 349-238-6666 è il numero di sms per scriverci in diretta, oppure se avete uno smartphone e vi siete accostato possibilmente in automobile, voi siete qui Radio 24 è il nostro profilo Facebook e voi siete qui R24 è il profilo Twitter. Il mio profilo Twitter invece è semplicemente Matteo Caccia. Tutto perché oggi parliamo della storia di Antonio, che va a fare un viaggio in un posto magnifico, arriva, compie una cosa che non deve fare e c'è il tipico scambio che avviene di solito tra una persona che è di origine italiana alla guida e una persona che non è di origine italiana e in questo caso neozelandese, che deve controllare che sulle strade le cose funzionino a modino, come direbbe Tiziano Bonini, che funzionino a puntino. Esatto, c'è quella sensazione lì per cui uno dice ma scusa un attimo, ma dai, va bene, ma non stavo andando, ma sì, ho capito, cioè va bene, c'è il limite, ok, mi dia la multa. 349-238-6666, ripeto, voi siete qui Radio 24. Prima di partire a raccontare la storia di Antonio, e preparatevi perché secondo me è una storia che anche solo come visualizzazione, come immagine, è passata davanti agli occhi a ognuno di noi, a tutti quelli che hanno avuto un'automobile o la patente o hanno guidato un mezzo, anche solo un motorino. Vi dicevo, a proposito di mezzi, prima di cominciare a raccontare la storia di Antonio, vi ricordo che lunedì, non prossimo, quello dopo, il 17, se siete dalle parti di Milano, se siete dalle parti del centro di Milano, ci vediamo non per strada, tipo ragazzi ci vediamo lì, ci vediamo in Piazza San Babila, vicino a Piazza San Babila al Pirelli Store di Corso Venezia 1. Noi trasmettiamo in diretta, raccontiamo una storia che ha a che fare con, non con le multe in quel caso, ma con le gare, con le auto da corsa, con pneumatici se volete, ma comunque una storia di quel tipo lì, e siamo lì dal vivo, siamo in diretta, si può venire, c'è da sedersi, c'è da girare, ma c'è soprattutto sta cosa magnifica che è un simulatore. Vabbè, e sarà che io non sono abituato ad avere la PlayStation, quindi ogni volta che mi ci siedo davanti mi sembra un gioco incredibile. C'è proprio un'auto da Formula 1. Insomma, venite, ci vediamo là lunedì 17 alle 16 in punto come al solito. 349-238-6666. Ieri mi è arrivata una mail fantastica da un ascoltatore che saluto se sta ascoltando in questo momento, che ci ascolta alle 7 del mattino dalla California, e lui però è giapponese, mi ha mandato una mail che è scritta con il traduttore, con Google Translate, e devo dire che quasi non ce ne si accorgeva. Era una mail, facciamo che la recupero, che ne dici? Era una mail perfetta, un attimo che inserisco i miei dati, qui non è mica facile, 00 password. Benissimo, l'abbiamo anche detta in diretta. Mo trovarla la mail. Dov'è? Mi avevi risposto tu, tizio? Niente, ve la leggo dopo, dai. Ve la leggo dopo perché adesso un pochettino ci stiamo perdendo. No, eccolo qua, una domanda per voi. Takehito Etani. Takehito, se ti stai ascoltando, ti prego, il mio nome è Takehito, io sono un giapponese che vive in California. Ho ascoltato Voi Siete Qui quasi ogni giorno per gli ultimi 4 mesi circa, da quando ho deciso di insegnare a me stesso l'italiano. Perché Takehito è uno che si mette lì e dice: oh ragazzi, adesso io, da solo, io adesso a me stesso insegno l'italiano. E ascolta Radio 24 e Voi Siete Qui. Gli ho chiesto una storia, vedremo se avrà voglia di mandarcela. Torniamo qui, torniamo anzi sulle strade della Nuova Zelanda, ma valgono le strade di qualsiasi posto. Quella multa, ammettetevelo, ve la meritavate. Viaggio di nozze. Uno di quei viaggi importanti, direi complicati, che se li racconti ti prendono per matto. Prima tappa, Londra, un paio di giorni, tanto per rilassarsi dalla stanchezza del matrimonio. Poi partenza per il posto più lontano. Sì, quello in assoluto più lontano da noi, la Nuova Zelanda. Arriviamo ad Auckland il 30 dicembre del 2002. Il giorno dopo prendiamo un piccolo aereo per Nelson, una cittadina sul mare tra le due isole. Il nostro punto di partenza è quello lì. Dicono che se fai una buca a Pistoia e passi dal centro della terra, arrivi esattamente lì. Dopo un ultimo dell'anno a dormire per via del fuso orario, finalmente il 1° di gennaio del 2003 abbiamo una splendida Toyota Corolla e partiamo per un giro di circa 6 giorni nell'isola del sud. Il primo giorno facciamo quasi 400 chilometri abbagliati e ammirati dalla bellezza dei posti che vediamo. Il secondo giorno succede il fatto. Dopo una prima sosta su una scogliera della costa ovest, riparto tranquillo. Stradone largo e diritto per diversi chilometri, illuminato dal sole, circondato da colline morbide e verdi. Sembra quasi di essere negli Stati Uniti per l'ampiezza del paesaggio. E poi accade tutto in un momento. Vedo prima il cartello di una località, non ricordo il nome. Poi subito dopo sulla sinistra una macchina parcheggiata che riconosco essere della polizia. Lo sceriffo, lo chiamerei proprio così, con quel cappello tipicamente da sceriffo, mi fa cenno di accostare e sembra quasi preoccupato. Mi saluta gentilmente e mi dice in un inglese molto comprensibile: mi scusi, stava viaggiando oltre il limite di velocità. Non ha visto il cartello? Lo sceriffo era un omaccione sui 60 anni, dall'aspetto bonario, baffetti bianchi e carnato rossastro. Sì, dico dentro di me, l'ho visto che c'era 50 come limite, ma andavo massimo 70 e sinceramente di centri abitati, case o persone non ne ho viste da ieri sera o dagli scorsi 100 chilometri, insomma, cosa vorrà questo qua? Lo sceriffo ripete la domanda, come per essere sicuro che abbia compreso le sue parole. Non l'ha visto il cartello del limite di velocità? E poi aggiunge: in Nuova Zelanda non vogliamo che i turisti muoiano per le strade. Lei stava viaggiando a più di 70 km all'ora. Io lo guardo ancora più sorpreso. Accenno qualcosa del tipo: beh, magari andavo a 70, ma con questa strada non c'è nessuno in giro. Ancora più sorpreso, lo sceriffo mi guarda serio e mi ripete: ma lei non lo ha visto il cartello, vero? Io allora, da buon italiano, ci provo con la compassione unita ad un po' di comprensione tra automobilisti navigati. Ah sì, l'ho visto, ma andavo comunque ad una velocità moderata e non pensavo fosse un problema. Insomma, questa è una strada grande, non c'erano rischi. Lui strabuzza gli occhi, quasi incredulo. Lei ha visto il cartello? Cioè, lei ha visto il cartello e andava a 70 all'ora invece che a 50? Scenda dall'auto, mi segua. Voglio proprio vedere se come dice Droghe la gioventù ti ha a gonfie vele. E quest'estate invece di andare a mare vado nel Messico, io altro che al mare voglio vedere se davvero si può volare senza rischiare. Lo sceriffo accende un piccolo computer e mi fa vedere una pistola laser con cui ha misurato la velocità. Guardi, vede qui, mi dice, lei andava a 73 km all'ora con un limite di 50 e aveva visto il cartello. Perché? A quel punto, dopo quei buoni 15 minuti passati in una specie di scena semicomica, io ho capito. Non cercava una missione di colpevolezza, voleva semplicemente capire. Insomma, lui era davvero preoccupato per la mia salute, non quella fisica a rischio di incidente mortale su un'auto in folle corsa, no, per la mia salute mentale. Cioè, Hai visto il cartello e comunque continui ad andare a 73 all'ora. Perché? Spiegami il motivo. Io sono rimasto senza parole. Ho guardato mia moglie, che nel frattempo cercavo di aggiornare sul dialogo, traducendo quello che mi diceva lo sceriffo. E poi finalmente ho capito. Il punto era che lui non riusciva a capire il motivo per cui, avendo visto il cartello, non lo avessi rispettato. Cioè, era una cosa che per lui non era concepibile, diciamo. Mi scusi, dico, il mio inglese non è così buono. Non avevo capito bene che cosa mi stesse dicendo. No, non ho visto il cartello del limite di velocità. E quando mi sento dire quelle parole, quasi non ci credo io stesso di averle dette. Lo sceriffo mi guarda dritto negli occhi, serio, silenzioso. I lineamenti del suo viso, fino a quel punto tesi e rigidi, in un attimo li vedo rilassarsi, fino quasi a sorridere. Beh, succede di non vedere un cartello, ma faccia attenzione. Comunque, la multa la può pagare in qualsiasi filiale della National Bank, entro un mese. Sempre da buon italiano ammetto di avere sorriso anche io, pensando ovviamente, sì, col cavolo che ti mando i soldi quando rientro in Italia. Chi vuoi che mi venga a cercare per una multa dalla Nuova Zelanda? Non faccio nemmeno in tempo a pensarla questa cosa, che lo sceriffo aggiunge: se non paga questa multa nei tempi previsti, lei in Nuova Zelanda a vita non potrà più tornarci. Mi allunga la ricevuta della multa e mi saluta. $350 di multa. Ora, la prima cosa che pensi è: ma sai quanto me ne frega di non tornare in Nuova Zelanda? Poi però ti viene come un senso di perdita di qualcosa, una libertà che ti sembra ingiusto non avere. Giuro, ci ho pensato tutta la notte e la mattina dopo ho deciso. Cerco subito una filiale della banca. Le banche all'estero, o almeno lì in Nuova Zelanda, hanno una specie di reception dove ti presenti e dici che cosa hai bisogno di fare e poi vieni chiamato ad uno sportello. Presento la ricevuta della multa e una banconota da $500. La receptionist mi guarda, legge, poi mi riguarda un attimo e mi chiede: non ha visto il cartello del limite di velocità? Io, sempre con quella sensazione di essere dentro a una candid camera, incredulo, stupito, quasi stordito, dico: come, scusi? Lei mi ripete la domanda, ancora quasi a bocca aperta ed impaurito ormai dalle conseguenze se dicessi il contrario. Confermo subito: no, non l'ho visto. Mi dà un numerino e mi dice di attendere lo sportello libero. Dopo pochi minuti mi avvicino al mio sportello per ritirare la ricevuta salvacondotto della multa e il resto dei soldi in dollari. E appena incrocio lo sguardo del commesso, anche lui mi guarda e spara: lei è quello che non ha visto il cartello, giusto? La fine di questa storia è che in Nuova Zelanda ci sono tornato 3 anni dopo, con moglie e figlio di 2 anni e mezzo, percorrendo con un piccolo camper circa 3.000 km, e so che non ci crederete, ma in 3.000 km non abbiamo mai neanche raggiunto i limiti di velocità. Chiaramente in posa davanti a un panorama stupendo, Antonio, nella foto che ci ha mandato e che è sempre sul nostro sito radio24.it, la nostra pagina, voi siete qui. È appoggiato a una sorta di balaustra, quindi forse è un belvedere, e alle sue spalle una foresta meravigliosa che immagino essere in Nuova Zelanda, ma come minimo lui adesso mi dirà che è in Abruzzo. 349-238-6666, multe che proprio uno si meritava, motorino con assicurazione scaduta, senza bollo e senza libretto, 1,5 milioni di lire è stata la multa più alta che ha avuto, più il sequestro del mezzo, Paolo. E poi Claudio invece scrive: leggo email, immagino sullo smartphone, vedo furgone polizia penitenziaria, me ne frego e continuo a leggere mentre guido, fermato, €170 più 3 punti, e questa per me è ufficialmente una notizia, che la polizia penitenziaria possa fermarti e darti una multa. 349-238-6666, andiamo in Nuova Zelanda o ovunque si trovi Antonio in questo momento. Pronto Antonio? Ciao, buongiorno. Ciao, come stai? Dove sei esattamente? Bene, non sono in Nuova Zelanda purtroppo. Dove ti trovi? Sono a Pistoia. Ah, ecco perché, dici che se fai un buco a Pistoia appari spunti direttamente dall'altra parte. Dicono così, diciamo, molto probabilmente non è vero, però è... Però ci piace immaginarlo. È piacevole, sì. Sei in giro a fare consegne adesso, dicevi? Sì. Perché sì. Tu lavori con un furgone? Io distribuisco birre artigianali, sì. Che sono tue, no? No. Quindi no, hai un furgone grande o un fiorino, per capirci? Tipo fiorino, ok, quindi è una macchina col cassone sostanzialmente. Sì. Tu leggi, ma lo sapevi che la polizia penitenziaria può darti le multe? No, non lo sapevo, quella ancora non l'ho presa. Vedi, anche la guardia di finanza. Badi scrive, superata guardia di finanza su statale, piogge, striscia continua, mi hanno fatto l'inseguimento ma non hanno esagerato nel punirmi. Però questa storia dello sceriffo, come lo chiami, che ti guarda e non capisce, effettivamente la cosa interessante di questa storia è questa qua, nel senso che probabilmente in Italia, adesso poi non so che è facilissimo generalizzare, però in Italia cerchi subito di contrattare, no? Guardi, sì, ha ragione, eccetera, eccetera. E quello dall'altra parte capisce che tu stai contrattando, invece questo tizio proprio no, non se lo spiegava. No, secondo me è proprio quella la cosa sorprendente, che mi ha messo in discussione a me personalmente, sinceramente, cioè al di là di quello che pensava lui... Guarda, ci pensavo ieri a questa storia e ero all'uscita dell'autostrada, rampa per entrare nella superstrada, al limite di 40 e nessuno va a 40 perché è quasi impossibile, magari ti prendono per matto se ci vai. E quindi cioè, noi lo facciamo regolarmente di non rispettare i limiti, ma non parlo solo della strada, insomma, in qualche modo, è proprio, secondo me, un modo di essere. Ad esempio... Antonio, scusami, tu a che ora cominci il tuo turno col furgone, cioè con la macchina? Vabbè, no, comunque... io lavoro, sono in proprio, quindi comincio e finisco quando c'è bisogno, diciamo. Però dico, oggi quando hai cominciato più o meno? Oggi ho cominciato tipo alle 8:30. Secondo te, dalle 8:30, quante infrazioni? Tanto non ti sente, diciamo, nessuno che possa venirti a cercare, non daremo il tuo numero. Però così, a occhio, a spanne, secondo te cosa hai passato, un arancione... Non hai fatto la precedenza. Sì, cioè, diciamo che qualche infrazione, sì, magari non hai messo la freccia o cose del genere. Però in un mese uno che fa il tuo lavoro, cioè uno che è proprio sempre sempre in giro a fare consegne spesso di fretta, quante multe gli arrivano a casa? Beh, insomma, si può essere bravi a prenderne tante, no? Non sempre arrivano, però qualcuna continua a prenderla ancora, nonostante quell'episodio. Mi racconti invece di quella sensazione che è molto interessante, che tu giustamente prima dici, sì, buonanotte, che ti pago la multa, chi se ne frega, sono già stato in Nuova Zelanda a posto così. E poi invece ti viene questa sensazione come di un pezzo di libertà che ti manca. Sì, in effetti ho sentito quel tipo di limite lì, in quel caso. Sarà anche che effettivamente è stato un viaggio che ci ha colpito molto e la Nuova Zelanda ci è rimasta un po' nel cuore, addirittura da tornarci dopo 3 anni. Però è stato proprio il domandarsi, ma ci deve essere qualcuno che non mi permette questa cosa e non mi sembrava giusto, no? Quindi non ci sei tornato per presa di posizione, ci sei tornato perché proprio è un posto magnifico. Assolutamente, sì. Ok. Antonio, dove stai andando adesso? A casa o a consegnare ancora qualcosa, un ristorante? No, vado ancora a consegnare per ora. Sempre a Pistoia? Sì. A che ora smonti? Ma stasera dovrei finire un po' prima, quindi alle 7. Ma ti porti a casa qualcuno? Bevi la birra? Ti piace la birra? Sì, certamente. Si può fare questo lavoro senza esserne partecipi. Antonio, grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie a te. Ciao, a presto. A ciao. 349-238-6666, leggo da Twitter però, voi siete qui R24, a proposito di multe meritate, primo mese di patente, pattuglia sul lato opposto, sfanalo per 400 metri per segnalarla. Questa è una roba che si faceva, non si fa più adesso, cioè Paolino lo fa, benissimo, che oh ragazzi, fu, occhio che c'è la pula, fu, fermato da una seconda pattuglia dal mio lato. Mario invece, 3 anni a guidare senza patente, perché è divertente quella cosa, perché c'è un po' di generosità nel dire, oh ragazzi vi do la mano, fu. Poi invece c'è le luci accese, tu e sei un piccio. Mario Serpe, 3 anni a guidare senza patente, era normale, patentato da un weekend, mi fermano per eccesso di velocità, niente multa, Ma cavoli, certo che guidare 3 anni senza patente, o avevi dei genitori sconsiderati, oppure eri tu che eri un folle. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata. Sono Paolino Corleone, Tiziano Bonini, Margherita Ina, sono sempre lì, belli solidi al comando. Io ringrazio Antonio che ha scritto, che ci ha raccontato questa puntata. Scaricate il podcast, ascoltateci in diretta, in streaming o dovunque vogliate, ma soprattutto raccontate storie, continuate a raccontare storie in generale, nella vita, e soprattutto mandatecela a voisietequi@radio24.it, una storia di una pagina e mezza che racconti qualche cosa di voi. Passate uno splendido, mi auguro, weekend. Grazie ad Antonio, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Emanuele, vivo a Borgo Satollo, in provincia di Brescia. La storia di lunedì è la mia e parla del mio incontro con Papa Francesco. Questa è la mia storia e io sono qui.